Storie italiane. La bella addormentata. Tanto, tanto tempo fa, c'era un regno dove vivevano felici un re ed una bella regina. Il re e la regina avevano un solo desiderio, il desiderio di avere un figlio. La regina pregava ogni giorno il Dio del Sole per avere un figlio. Oh, Dio del Sole, che ci hai conferito la tua benevolenza! Ti sei dimenticato di onorarci con un bambino che noi possiamo amare. Ti prego, Dio, ti prego per questo. Per favore, Dio, per favore, per favore! Improvvisamente, un luminoso raggio di sole illuminò una pietra. La pietra magicamente si trasformò e apparve una rana. Non ti preoccupare, mia regina! Il vostro desiderio sarà esaudito. Con la prossima primavera inizia la fioritura e dentro al tuo grembo crescerà una bella bimba. Dopodiché la rana sparì. Oh, grazie per la vostra benedizione, Dio del Sole. Dopo alcuni mesi, come predetto dalla magica rana, la regina diede alla luce una bellissima figlia. Le tue guance sono così rosse, proprio come una rosa. Ti chiamerò Rosmund. Tu sei la benedizione del mio Dio Sole. Sei il mio dolce sole. Il re, non riuscendo a contenere tutta la sua gioia, organizzò una grande festa. Invitò tutti gli abitanti del regno, le donne sagge e le fate per benedire la loro bambina. Il re e la regina donarono oro a tutti gli invitati a palazzo. Le 12 fate benedirono con i loro poteri la piccola principessa. Che la bellezza dell'universo possa essere con voi in ogni momento. Piccola principessa, il mio regalo è la felicità eterna. Che tu possa non conoscere mai la tristezza ed essere sempre felice. Io infondo a voi il coraggio, l'onestà, la gentilezza, l'amore, la salute, l'intelligenza. Ognuna di esse conferì alla bambina tutte le qualità che una persona potrebbe desiderare. Quando la 12ª fata stava per dare alla piccola il suo dono, l'intera sala improvvisamente si coprì di fumo verde. Quando il fumo scomparve, apparve la 13ª fata che non ricevette l'invito. Essa vive nel profondo della foresta oscura. Stava bruciando di rabbia perché il re aveva dimenticato di invitarla. Allora, vedo che tutti sono stati invitati. Tutto il regno e anche le fate. Ma purtroppo io non sono stata invitata, perché io sono la fata nera e il vostro bambino non merita di conoscermi. Mi scuso per il mio comportamento maleducato, 12ª fata. Beh, io non voglio lasciare questa bella piccola principessa senza un mio speciale regalo. La più bella principessa crescerà, circondata dalla felicità, dall'amore e dall'ammirazione. Ma nel 15° anno della sua età, la piccola principessa si pungerà con un fuso, la magia inizierà e cadrà a terra morta. Prendete quel mostro! Tutti i presenti erano terrorizzati dalla maledizione della fata nera. La regina si mise a piangere, anche la bambina spaventata si mise a piangere. L'ultima fata si fece avanti per dare il suo dono alla piccola principessa. Oh, piccola principessa, non posso annullare la maledizione, ma ne posso indebolire l'effetto. La principessa non morirà a 15 anni, ma cadrà in un sonno profondo per un centinaio di anni. Grazie, fata, per la vostra benedizione a mia figlia. Noi vi saremo sempre grati per la vostra benevolenza. Divina fata, io volevo vedere un giorno mia figlia sposarsi. Non puoi soddisfare il nostro desiderio, perché noi non saremo in grado di vivere fino a 100 anni. Ti prego, usa la tua magia, realizza il mio desiderio. Va bene, va bene. Oltre alla principessa, anche voi suoi sudditi vi addormenterete insieme a lei per 100 anni, finché non si sveglierà e l'incantesimo sparirà. Lei si sveglierà da un sonno profondo solo quando un affascinante bel principe la bacerà, e solo allora l'incantesimo sarà finalmente compiuto. Oh, grazie, divina fata. Ti saremo grati per sempre. La benedizione delle fate rincuorò tutto il regno, ma ancora aleggiava il turbamento della maledizione in tutto il reame. Nella speranza di salvare sua figlia, il re ordinò ai suoi soldati che tutti i fusi del regno venissero bruciati. La fanciulla crebbe, ornata da tutti i doni delle fate magiche ed amata in tutto il reame. Gli anni passarono e infine il giorno del 15° compleanno arrivò. Il regno fu addobbato per il suo compleanno. C'era una grande festa nel regno. La giornata si concluse felicemente, poiché nulla di brutto accadde quel giorno. Giunse una notizia che un parente della regina era gravemente malato. Il giorno successivo, la regina chiese alla sua fidata nutrice di prendersi cura della sua amata principessa. Il re e la regina partirono lasciando il loro castello. La principessa si trovava nel giardino e giocava con gli uccelli. Duenna la nutrice stava abbeverando i fiori sull'altro lato del giardino. Di colpo le nuvole si riunirono nel cielo ed iniziarono ad oscurare il sole. Apparve una bella farfalla tutta d'oro e si posò su un fiore accanto alla principessa. Oh, guarda! Che bella farfalla dorata! Non ho mai visto una farfalla splendente! Sarai mia! La farfalla brillava così tanto da ipnotizzare la principessa, che le corse dietro per prenderla. La sua mente era rapita da essa. Finalmente la farfalla si rifugiò all'interno di una vecchia torre. Il sole fu completamente nascosto, coperto con delle minacciose nuvole nere. La principessa salì su una scala a chiocciola molto stretta, seguendo la farfalla che la condusse davanti ad una porticina. La principessa aprì la porta per prendere la farfalla. Dentro quella stanza vide seduta una vecchina che lavorava in lino con il suo antico fuso. Mi scusi, dov'è quella farfalla dorata che è appena volata qui da voi? Cara, io non lo so. Che cosa state facendo con quello strano attrezzo? È un mandrino per il cucito. Vuoi provare? Sì, certamente. Non ho mai visto una cosa del genere. Appena prese il mandrino del fuso, cominciò a girare la ruota. Ma non appena lo toccò, la principessa si punse un dito con l'ago, così che la profezia della malefica fata si compì. La principessa cadde all'indietro, in un sonno profondo. Questa è la punizione che meritano i tuoi genitori. Ma insultare la fata nera! Duenna la nutrice capì che la principessa non era in giardino. Cominciò a cercarla dappertutto nel grande palazzo. Il re e la regina ebbero timore per la scomparsa della principessa. Ogni servo e soldato ricevette l'ordine di cercare la principessa. Il re stesso iniziò a cercare la figlia. Presto raggiunsero la vecchia torre. Salirono ed entrati davanti alla porta, il re vide la principessa dormire vicino al vecchio fuso e pianse. Luce del sole, oh luce del mio cuore! Che cosa è successo alla mia bambina? La regina raggiunse la camera. Oh mio Dio! La profezia! L'abbiamo persa per i prossimi 100 anni! Oh cara, smetti di piangere! Come ha profetizzato la fata? Ognuno di noi cadrà insieme a lei in un sonno profondo, ma prima noi dobbiamo prepararla per il fatidico incontro con il principe. Il re chiamò intorno a sé tutte le fate reali. Le fate reali vestirono la principessa con il vestito più bello. Le fate decorarono il suo letto con tanti fiori colorati ed una pelliccia bianca. Poi misero la principessa sul letto. La principessa addormentata era molto bella. Guarda com'è bella la principessa! Sì, lei è la bella addormentata. La divina fata bianca iniziò a pregare. Oh Dio del sole, ecco la tua figlia sdraiata sul letto. Quando completerai 100 anni di sonno, invia il tuo messaggero pieno d'amore per svegliarla e riversa di nuovo la tua benedizione sul regno con il sole. Amen! Oh, mia cara, non abbiamo molto tempo. Cerchiamo di raggiungere i nostri troni. Andiamo! Le fate lasciarono il palazzo, chiusero il cancello e invocarono gli incantesimi di protezione. Uno ad uno, tutti quanti cominciarono a divenire immobili. I soldati caddero addormentati, i cavalli nelle stalle, i cani nel cortile, i piccioni sul tetto, le mosche sul muro. Lo stesso fuoco che guizzava sul focolare si sopì. Il re e la regina dormivano sui loro troni. La nube scura racchiuse il regno. La pioggia e i temporali si scatenarono e poco dopo crebbe una grande siepe di spine finché alla fine l'intero castello fu nascosto alla vista di tutti. Dopo pochi anni si sparse la notizia della morte di tutto il regno nei dintorni. Molti principi vennero e cercarono di farsi strada attraverso la siepe, ma era impossibile farlo. I giovani furono catturati e non furono più in grado di liberarsi, rimanendo bloccati tra le spine. Finalmente, un principe reduce da numerose battaglie, che ebbe conquistato molti regni, sentì la storia del regno addormentato e della sua bella principessa. Oh mio signore, è molto rischioso andare in quel palazzo. Nessun principe è mai tornato vivo da quel regno maledetto. Per me suona come una sfida. Io devo assolutamente andare lì per recuperare la bella addormentata. Ma lottare contro la maledizione della fata nera? Non è per niente facile annullare l'incantesimo. Io vincerò, ci riuscirò. E salverò il regno dalla maledizione della fata. Il dio del sole è sempre con me. Se riesco, in cambio sicuramente conquisterò il cuore della bella addormentata. Per fortuna, in quel periodo di tempo, i 100 anni erano quasi giunti al termine. Il fatidico giorno giunse e la principessa potrebbe essere risvegliata dal principe. Il principe finalmente raggiunse il castello. In quel momento il temporale si fermò. Le nuvole grigie rivelarono la luce del sole. Il principe giunse davanti al castello. Si accorse che tutti dormivano e si avvicinò. Soldato! Soldato! Mio Dio! Non è morto! Il suo cuore batte ancora! Il principe controllò i battiti del cuore dei soldati e si rese conto che erano tutti vivi. Entrò nel cortile e vide la sala principale. Tutta la corte giaceva addormentata, come se fossero morti. Il re e la regina dormivano nei loro troni. Il principe non capiva cosa stesse succedendo nel castello. E così proseguì. Alla fine raggiunse la camera della principessa. Vide la bella principessa addormentata in un sonno profondo e non riusciva a distogliere lo sguardo da lei. Oh, ma che bella principessa! Oh, mi sento così estasiato! Mi sento orgoglioso di essere vicino a lei! Le prese la mano nella sua mano e la baciò. L'incantesimo sparì. La principessa aprì gli occhi. Ogni abitante del regno si svegliò dal magico sonno profondo. Il re e la regina, i soldati, gli animali, tutti si svegliarono. Anche il fuoco nel camino iniziò di nuovo a divampare. In tutti questi anni ho aspettato il tuo arrivo. Mio principe, sono felice che ora sei qui per salvarmi. Io sono innamorato di te, principessa. Non posso vivere senza di te. Tu vuoi sposarmi? Sì, mio principe! Mi hai salvato la vita. Tu sei il mio destino. La coppia entrò nella sala regale, dove tutti i sudditi e regnanti li attendevano con grande entusiasmo. Tutti applaudirono e accolsero con favore la nuova coppia. Oh, mia cara bambina! L'attesa finalmente è finita. Infine hai incontrato la tua anima gemella. La mia bambina! Non posso dirvi quanto sia felice! La mia bella principessa! Posso abbracciarvi? Sì, naturalmente, figlio mio! Ora tu fai parte di questa grande famiglia! Tutte le fate e tutti i sudditi del reame, riuniti nella corte, videro questo momento memorabile. Questo sarà il giorno più memorabile nella storia di tutto il nostro regno! E ho deciso di renderlo magico e ancora più prezioso. Oggi vi annuncio il matrimonio della mia dolce e cara figlia! La mattina seguente il sole splendeva. La sua luce irradiava una piccola capanna buia nel cuore della foresta. Quella stessa capanna dove viveva la fata nera. Ah! la fata nera divenne cenere. Dalle ceneri venne fuori la stessa farfalla dorata che anni fa ipnotizzò magicamente la principessa. La farfalla volò verso il regno e si sedette su una roccia in un bel giardino. Immediatamente la roccia si tramutò in rana. La regina e la principessa, immersi nell'acqua della vasca, pregavano il dio sole. All'improvviso, la regina notò la rana e la riconobbe. Che sorpresa! Signor rana, messaggero del dio sole, ti presenti dopo tanti anni? Questa volta il dio del sole mi ha mandato a benedire il tuo regno! Hai sconfitto la maledizione della cattiva fata nera! Il dio del sole, per punirla, l'ha trasformata in cenere e ha inviato un dono per la principessa! Una farfalla tutta d'oro! Oh, che bella! La regina invitò la rana al matrimonio per benedire la coppia. La nuova coppia si sposò e ci fu una grande festa. Tutto fu allestito per l'occasione. Tutti i vostri desideri si sono finalmente realizzati! E da quel giorno vissero per sempre felici e contenti.